Guardi, non è che lo dico per una ragione politica del momento, lo dico perché il rapporto indica questo. Spiega in modo molto chiaro che il declassamento si fonda su due elementi di fondo tenuti in considerazione. Il primo è di carattere politico, il secondo è collegato al tema del debito pubblico. E ci spiega anche il rapporto, leggendolo nel dettaglio, ci spiega anche le ragioni per le quali vi è stato questo declassamento per le questioni politiche. Ora, è evidente che se è legittimo che una società di rating indichi una ragione politica esprimendo una sua valutazione dopo che il governo la settimana scorsa ha ottenuto la fiducia alla Camera, è legittimo anche che la politica possa rispondere in modo altrettanto deciso. Detto questo, lo dico non per polemica, ma sicuramente il giudizio di Standard & Poor's è un giudizio importante da tenere in conto. Però mi sembra che negli ultimi 10 anni, e soprattutto negli ultimi 2 o 3, i giudizi espressi su importanti società, cito la nostra Parmalat, Sì, ma sì. potremmo citare la Lehman Brothers e Ci altre, furono degli errori. a distanza di pochi mesi ci sono stati degli errori direi Però, clamorosi. Quindi ministro, che con ci il sia. massimo rispetto voglio dire, però insomma, queste cose vanno tenute nella giusta Però, ministro, lei ha considerazione. detto la fiducia ottenuta, ma non è un momento. Tutti i segnali parlano di indebolimento in questo momento dell'azione di governo, di indebolimento della politica. Cioè, è da pazzi descrivere l'Italia in questo momento così? C'è una chiara azione mirata a mettere in difficoltà il governo. Detto questo, se l'elemento Di di chi? Vabbè, fondo da parte delle opposizioni, da parte le di opposizioni fanno il loro loro, lavoro. per carità, da parte anche di un'azione che non fa bene al nostro paese. Ieri tenga conto che, come è noto, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale della Procura di Napoli, che tanto danno ha fatto con la sua indagine che non doveva fare, nel Cioè, i senso che magistrati, quindi una parte della magistratura fa una un'azione. piccola parte della magistratura, in questo caso la Procura di Napoli, ha fatto un'indagine rendendo pubbliche tutte le telefonate che non hanno alcun valore di carattere penale, ma mandandole in giro per il mondo e non doveva e non poteva farlo.